quando si fanno le verifiche bisogna anche avere il coraggio di dire che con altri candidati saremmo andati meglio, quindi io non credo che si possa tutte le volte che ci sono le elezioni fare la gara di dire abbiamo vinto, abbiamo sempre vinto tutti, non è così. Qui si sa innanzitutto chi ha perso, abbiamo perso noi in Lazio senza che il centrodestra avesse presentato la lista e sinceramente è stato un capolavoro riuscire a perdere senza che gli altri avessero messo perfino la lista a Roma, e abbiamo perso in Piemonte, nell'uno e nell'altro caso con candidati diversi io sono convinto avremmo vinto, avremmo sicuramente vinto con Chiapparino in Piemonte e probabilmente se Laborino si fosse occupato un pochino più del Lazio, un pochino meno di raccogliere le firme per la sua candidatura come capo dei radicali in Lombardia sarebbe andata meglio. Perché secondo lei non si è scelto ad esempio Chiapparino in Piemonte? Perché ci è mancato un po' di coraggio e meno male che in Puglia abbiamo fatto le primarie, perché sennò avremmo cancellato anche l'esperienza di Vendola. Credo che il PD debba accettare la logica di fare sempre le primarie, sempre, e credo anche che ora il momento sia buono per ripartire, i risultati non sono granché, però nei comuni si dimostra che dove si mette un candidato sindaco che la gente apprezza, vince il nostro candidato sindaco, perché? Perché è credibile, perché la gente lo apprezza, prendiamone atto perché per il futuro si riesca ad essere un pochino più legati al rapporto con le persone, con i cittadini e un pochino meno legati agli assetti fra partiti, agli equilibri, ai caminetti interni, un po' più di volontà di guardare fuori dalle stanze dei partiti. Coraggio, e vorrei dire la nuova generazione deve essere anche in prima fila. Un messaggio forte, lo ha ricordato lei, arriva dalla Puglia con la vittoria di Nicky Vendola. Che cosa ne devono trarre i leader? Beh, che quando si immagina di fare delle operazioni a tavolino dalle stanze romane non funzionano. Penso che tutti noi dobbiamo prendere atto che l'esperienza pugliese è esattamente l'opposto di ciò che è accaduto, per esempio, in Lazio o in Piemonte.